Baba bubblegum, bubblegum, ti mando un max, è da tutto all right, yeah. Mamma non sa che cosa metti sul suo sofa, sofa, yeah. Baba bubblegum, bubblegum, ti mando un max, è da tutto all right, yeah. Mamma non sa che cosa metti sul suo sofa, sofa, quel senso di vuoto tipo non so che è giusto per me, boh. Hai cambiato tutto ma non hai cambiato ciò che davvero conta. Bro, da non solo per me so, già anche per lei conta. Solo che di meno, un po' di meno ma un po' di vero non farebbe male. Succo di nero, sfrutto il dinero per sembrare meno sbatti quando tu mi ricatti col siero. Tu succo il pensiero, non fare il negativo che a passeggero. Manchi un po' di spirito, campa un impero, se con quella lingua dicessero il vero. Bubblegum, ti mando un max, è da tutto all right, yeah. Mamma non sa che cosa metti sul suo sofa, yeah.